Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Luca Bianchini, forse lo ricorderete, lo scrittore che era diventato famoso nel 2004 con l'esordio Instant Love, poi naturalmente sono arrivati altri libri, Se domani farà bel tempo, anche una biografia su Eros Ramazzotti, ma oggi siamo qui per parlare dell'ultimo romanzo che si intitola Siamo solo amici, uscito veramente da pochissimi giorni, pubblicato da Mondadori. Allora Luca, il protagonista di questo romanzo è Giacomo, un personaggio veramente anche tenero a tratti, ce lo puoi descrivere un po'? Guarda, Giacomo è un personaggio... Beh, innanzitutto ciao, ti trovo in formissima. Ecco, bene, iniziamo subito con i complimenti. No, Giacomo è un personaggio che a me è nato da un film, Tormentone, che credo che Rai 1 trasmetta almeno una volta al mese, che è Pretty Woman. Secondo me Pretty Woman, Julia Roberts, non doveva sposare Richard Gere, ma il portiere, il concierge Fantastico, che l'aiuta a usare le posate. E infatti Giacomo è un concierge. Quindi è nato da lì e se, mi sono immaginato un personaggio come lui che è perfetto dentro il Grand Hotel, che però come esce in strada, nella vita vera, si perde e diventa di colpo insicuro, fragile, che non sa bene decidere. Quante risposte sa lui all'interno dell'hotel, quante non ne sa nella vita. È vero, perché Giacomo è un personaggio, dicevo prima, anche un po' tenero, perché lui insomma ha questo strano modo di rapportarsi al mondo, è molto chiuso, sembra quasi che non gli interessi nulla di quello che accade, invece in realtà dentro è tutto un altro fuoco. Ma come tutte le persone molto riservate, un po' sole, e soprattutto che fanno un lavoro di quel tipo, quasi psicologico, perché un portiere d'albergo anche un po' decadente come quello veneziano dove è ambientato Siamo solo amici, il sapere osservare, il capire il cliente anche solo da dove posa la borsa, che scarpe ha, poi lui è un ottimo osservatore, fa venire fuori anche il suo animo, che però non riesce a esprimere apertamente alle persone intorno a lui. Giacomo tra l'altro osserva moltissimo i clienti, infatti ha un diario dove un po' scrive quello che vede e si immagina un po' le vite dei clienti di questo hotel. Quello l'ho preso proprio da me, in realtà, perché per almeno 2 anni ho fatto su e giù in treno da Torino a Roma e io, che sono una persona curiosa, mi diverto moltissimo in treno a osservare le persone, a guardarle, anche ascoltare le loro conversazioni telefoniche, perché a volte non ne puoi fare a meno, e mi piace sempre farmi film sulle persone che vedo, che incontro. Ovviamente non è la mia una mania, lì l'ho un pochettino esasperata, però mi piace l'idea che magari da pochi tratti, da pochi gesti, una persona possa raccontare. Lui ad esempio dice una cosa, le cose che noi lasciamo dentro le stanze d'albergo raccontano molto di noi, più di quello che mettiamo nelle valigie. E io ogni volta che lascio una stanza d'albergo magari trovo un pezzo mio di filo interdentale buttato lì, un biglietto del treno, degli scontrini. Se tu dai un'occhiata a quelle cose, già ti puoi fare una piccola storia. Ed è bello, è anche un invito alle persone a osservare di più gli altri. Ecco, anche tu ti immagini le storie delle persone che incontri appunto in treno e in altre circostanze, ma non hai un diario. No, no, ci manca pure il diario. È no, un po' no. Da serial killer avere un diario. Esatto, no, ma lui lo fa con affetto, non c'è morbosità e non è che va lì a frugare nel pattume magari della stanza. Semplicemente se gli capita lo legge il bigliettino che trova, no? Ad esempio una ragazza ha lasciato una crema contorno occhi o una cartina di Padova e lui si fa questo piccolo film. Entriamo un po' dentro la trama di questo romanzo. Giacomo, abbiamo detto, lavora in un hotel di Venezia. A proposito, come mai l'ambientazione a Venezia? Tu sei torinese, doc. Ma perché io devo sempre, anche se c'è un po' di Torino in questa storia, sì. Devo dire che io devo sempre ambientare le mie storie in città che non conosco bene, perché mi piace fare un viaggio nel viaggio. Quindi ne ho approfittato. E poi perché Venezia, secondo me, è una città che molti conoscono, che però pochi conoscono di notte, perché ormai il turismo è un pochettino mordi e fuggi, e la Venezia notturna è una città meravigliosa da scoprire, per niente pericolosa, anche se è quasi inquietante. No, la Venezia che emerge da questo libro tra l'altro è bellissima, insomma la descrivi molto bene, sembra veramente fatta da un veneziano. Ma io ho avuto due guide veneziane, due Virgili, ecco. Un Virgilio e una Virgilia, ecco. Eh beh sì, c'è una ragione, ci sono anche delle frasi in dialetto le veneziano. Frasi in dialetto, ma anche semplicemente come si chiamano i luoghi. E loro mi hanno fatto vivere, perché poi il bello di andarsi a documentare, anche se non è che sia stato chissà quanto tempo, così per passione, ti permette di non avere quell'ansia da prestazione che si ha sempre quando si visita una città. Per cui era bello perdersi, fermarsi nei baccari a bere i cicchetti, parlare con la signora Silvana, che è questa signora anziana che non sopporta Dino Buzzati, che a me piace molto, è una signora, l'idea mi è venuta da una signora vera, che era, si presenta tutti i giorni nello stesso ristorante a prendere un prosecco per cena. E allora veniamo agli altri personaggi di questo romanzo. Dicevamo la trama: Giacomo lavora in questo hotel di Venezia e sembra sempre in attesa di qualcosa, o meglio di qualcuno. Chi è che sta aspettando? Lui sta aspettando questa donna, che lui crede essere la donna della sua vita, che si chiama Elena, che è una madamina torinese, proprio la classica borghese torinese che c'è. Io le conosco perché è un po' la mia città, che quindi parla poco. Il suo motto in realtà è non si bada a spese, quindi non è neanche tanto torinese, perché è più milanese nel nostro immaginario collettivo. Però una donna che ha sempre molto riservata, è molto precisa, bada molto alla forma. Troppo, e lui è un po' l'uomo della sua vita, anche se loro si sono sfiorati solo una volta. Però ci sono a volte nella vita delle persone che ti sfiorano anche per poco tempo, con cui si crea un legame magico, che non è neanche l'amore, perché è come se fosse una sorta di amore messo lì, che gravita sulla tua testa, a cui ti aggrappi nei momenti di insicurezza. Tu sai che c'è una persona con cui tu hai un rapporto speciale, anche se non la senti, e anche se non la vedi, sai che quando la rivedrai ci sarà qualcosa. Quindi c'è qualcosa fra questo Giacomo ed Elena. E poi c'è un altro personaggio veramente meraviglioso di questo libro, che è Rafael, questo brasiliano che irrompe con tutta la sua gioia di vivere nella vita proprio di Giacomo. Sì, mi piace moltissimo. Questo è nato da un amico vero brasiliano che aveva una storia incredibile, simile per alcuni versi, anche lui faceva il portiere di calcio, e mi piaceva l'idea, e mi piacciono sempre le cose per contrasto, anche nell'amicizia, perché può essere possibile, e questo ho preso spunto molto dalla mia vita. Io ho degli amici che non c'entrano niente con me, e che razionalmente io non riesco a spiegarmi come mai siamo amici. E per questo poi anche il titolo è diventato quello, Siamo solo amici. Siamo perché solo amici. L'amicizia è un sentimento su cui in realtà si indaga poco, perché crediamo di conoscerlo, ma ci sono degli aspetti dell'amicizia misteriosi tanto quanto l'amore. Infatti è un bel rapporto di amicizia quello fra Giacomo e Rafael, e soprattutto Rafael che cerca di trainarlo in questo rapporto. Invece Giacomo è molto riservato, fa fatica insomma a lasciarsi andare con questo nuovo amico. Ma non è facile quando è una persona diretta, immediata, che ti dice tu quanto guadagni, quelle cose lì che per lui, cioè quando la cultura è diversa a volte mancano proprio delle regole base, no? Della convivenza. Però Giacomo ne è attratto da una persona così, perché una persona che involontariamente probabilmente riesce a rompere quella corazza e fa venire fuori magari un animo suo che lui avrebbe sempre tenuto represso. Ecco, che relazione a questo punto inizia a esserci fra questi tre personaggi? Abbiamo detto Giacomo, il protagonista, poi Elena, la donna della tanto sua vita, attesa. Rafa, e poi c'è un altro personaggio che a me è piaciuto moltissimo, di una tenerezza disarmante, che è la prostituta Frida. Eh sì, pensa come sono sul pezzo, sull'attualità, prostituta di alto livello, insomma, che chiede molto. Che rapporto c'è? Tutti e due in realtà i protagonisti maschili, Giacomo e Rafael, sono un appuntamento col destino, tutti e due. Uno aspetta questa donna che si chiama Elena, l'altro sta inseguendo un'attrice di telenovelas, proprio sembra un vero cliché. Ci si mette di mezzo questa prostituta, che è legata a Giacomo da un favore antico, che piano piano si toglie le vesti, tanto lei è abituata, della prostituta e diventa una donna. Ma non che una prostituta non sia una donna, ma una donna in amore. Per cui anche lei, si trovano tutti in una fase di rivoluzione emotiva, perché per la prima volta dopo molti anni lei si rende conto che c'è qualcuno che le piace. Che c'è qualcuno che le piace veramente. Che non possiamo dire troppo, perché sennò no, svegliamo. Infatti noi a questo punto non diciamo nient'altro, Luca, perché bisogna leggerlo questo libro, che è veramente molto, molto bello. Insomma, ti trascina veramente nella storia. E allora lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, il libro si intitola Siamo solo amici, l'ha scritto Luca Bianchini, che ringrazio. Grazie ed è pubblicato da Mondadori. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.